jugadore d'estate, giocatori senza nulla attorno al cielo. Ride il bambino musulmano, la sua palla bella corre verso di me. Passi frettolosi scatti, timorosi gatti in burca e gilet. Pioggia e sole dentro me, terremo mi servire, gente attorno, gente che da vicino. Marcia i piedi, sangue vino, couscous, caffè. Gente attorno, gente che per le mondi serviere. Pioggia e sole dentro me. Gente, tra le pagine del giorno, parola per la bocca inchiostri. Corre il bambino americano, e libera la giostra all'una parte. Oni al volere delle stelle, pugni nella polvere, oro che non c'è. Piace sole dentro me, erre mondi servire, gente attorno, gente che e lontano sotto il cielo pane sale. Sogni e riso, couscous, caffè. Gente attorno, gente che terre mondi servire. Pioggia e sole dentro me. Yeah.